Episodio 15. 17. Ascolta l'intervista. Allora, Paola Spano, tu hai una lunga storia da raccontare sulla scuola e in parte questa storia l'hai già narrata in un libro che si intitola Compagni di viaggio, 20 anni in una scuola romana. Come sei approdata alla scuola? Dove hai insegnato? Cosa ci puoi raccontare di questa tua esperienza? Io sono approdata alla scuola per caso, perché appena laureata sono partita per la Russia, per l'Unione Sovietica, per studiare il russo. Invece poi subito dopo è morto mio padre e sono ritornata, e mentre ero a Roma per i funerali mi è arrivata la telefonata di un preside di un paese che si chiama Ceprano, a 90 km da Roma, per offrirmi un incarico, una supplenza annuale. Era la scuola media della riforma del 62, che quindi si era molto estesa e per questo c'era lavoro per tutti. Che significa, per chi non conoscesse questa riforma, che, diciamo, che cosa portava? Questa riforma ha sostanzialmente abolito, ma non del tutto, il latino, e era una scuola, è stata la prima scuola di massa che c'è stata, perché prima c'era la scuola media con molto latino e la scuola di avviamento al lavoro che non aveva il latino e che comunque chiudeva la possibilità di continuare gli studi dopo i 14 anni. Tu cosa insegnavi? Io insegnavo lettere, italiano, storia, geografia e latino, perché ancora un po' di latino si insegnava in seconda e in terza media. Quindi questa è una scuola, diciamo, di periferia? Il paese, il Ceprano, non è tanto piccolo, però io avevo dei ragazzini figli, c'era la figlia del maestro, la figlia del dottore, la figlia del farmacista, ma c'era anche un ragazzino, per esempio, che si alzava la mattina alle 4 per dare da mangiare alle mucche e poi veniva a scuola da fuori Ceprano, perché venivano anche da paesini vicini. Quindi uno spaccato sociale che oggi non si incontra quasi più, no? Nelle scuole, direi. E poi ho fatto altri anni fuori, perché ho insegnato ad Anzio, a Marino, a Nettuno e poi a Tivoli. E poi finalmente sono approdata a Roma, prima in una scuola di Centocelle e poi a Tiburtino Terzo, e avevo una cattedra divisa tra Tiburtino Terzo e Casalbruciato, che sono due quartieri vicini sulla Tiburtina. Tiburtino Terzo è un nome che, diciamo, è un quartiere che significa qualcosa. Che tipo di quartiere, che tipo di realtà sociale c'è nella scuola? Era, dunque, Tiburtino Terzo era un quartiere costruito durante il fascismo per sistemarci le persone espulse dal centro storico, dalle case che erano state distrutte nel centro storico per costruire Via dei Fori Imperiali e così via. E tra l'altro è buffa questa cosa, perché queste persone sono state mandate ai quattro capi di Roma, per cui ci sono persone di Tiburtino Terzo che avevano parenti a Prima Valle. E era una realtà composita, nel senso che c'erano artigiani, c'erano ladroni, come li chiamavano loro, c'era un po' di tutto. Però, come poi ho verificato molti anni dopo, perché adesso stiamo facendo delle interviste ai miei ex alunni di Tiburtino Terzo, c'è una fortissima identità di quartiere a Tiburtino Terzo, un senso proprio di appartenenza grandissimo. E i ragazzini erano abbastanza scatenati, a quell'epoca, era l'inizio degli anni 70, rubavano gli stereo dalle macchine e facevano le acrobazie non in motorino ma in bicicletta, sollevando la ruota di sopra, eccetera, no? Però questo ventennio di cui abbiamo parlato con la mia amica nel libro è cominciato lì, perché è stata un'esperienza molto coinvolgente, un po' perché i ragazzini erano coinvolgenti, un po' perché erano gli anni della lotta contro la selezione di classe nella scuola, insomma della maturità della riforma del 62, quindi appunto la lotta contro le bocciature, il tentativo però di non fare una lotta contro le bocciature puramente burocratica, ma di promuovere veramente l'istruzione, l'educazione nei ragazzini più svantaggiati, no? il famoso articolo della Costituzione, e quindi poi in quella scuola dove stavo io piano piano ci siamo aggregate. Tu come vedi il futuro della scuola da questo momento in poi? Come lo immagini? Io lo immagino come un futuro molto scardinato, non so come dire. Cioè, io penso che il tempo pieno sia buono nella scuola perché è un tempo educativo in cui si vive insieme in qualche modo e questo è educativo. Penso che a partire dalla riforma di Berlinguer, arrivare alla Moratti, l'errore è pensare di dare un'educazione immediatamente spendibile, pragmatica. Cioè, sì, pragmatica, cioè insomma il simbolo delle tre I è una stupidaggine perché... Diciamo quali sono queste I. Impresa, inglese e... Informatica, sì. Naturalmente bisogna che i ragazzini sappiano usare il computer, ma lo sanno usare per conto loro, non c'è bisogno di insegnarlo. L'inglese sarebbe importante insegnarlo, però bisognerebbe avere degli insegnanti che lo sanno, cosa che non c'è, quindi bisognerebbe spendere dei soldi per aggiornare gli insegnanti, cosa che non si fa. E l'impresa poi non c'entra niente con la scuola. E poi in realtà tutti gli educatori si convincono sempre più che una formazione generale, l'educazione a pensare, l'educazione critica, è molto più importante delle capacità tecniche.